devi chiedere il numero di telefono, qualche cosa, se tu cazzo non fai queste cose, alla fine quella lì dice che non interessa. Ma cosa, cazzo? E altro, ti devi buttare, se non ti butti non pigli, vero Tony? Giusto, appunto, io come ti ho parlato in accena giovane, pochissimo. Quello non ce lo mi manca a me, la faccia di cazzo, un miraggio, scusate la frase, ma... Ti devi buttare anche a trovare una donna, ce la trovi. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. Mi sbuccio. Con la cuore. Cosa Feliciano la cantava così? Finalmente, anche che sono zitto, su Badu, adesso la cantano a Ciampi. Badu, ti batti di Badà. Come di mignotta è già c'è. No, quelle sono sozzone, lasciale perdere quelle su Badu. E vabbè, fanno benissimo, e mica si vede il carica. Ma noi ti vuole cercare una donna seria per sistemarsi, mica una soccorona. Ah, per tenere una sera per tenere a casa, allora va con le scorse. Tu, dove dai un consiglio tu che sei più anziano? Il corrogato! Certo, io devo per consigliere da voi! Non siamo all'anno in più! Guarda, dai furia, venga! Guarda, la verità è che non scherziamo, ma di quelle ce n'è quanto ne vuoi, ce n'è! Ma di persone serie, mi sa che si contano sulle dita, si contano! Perché c'è un po' di gente che ne approfitta, Oh dai, continuate, io vi ascolto, che mi sedai a tutta l'altra parte, che voglio riposarmi la schiena, che domani ci sarà pacca di nuovo. Buon proseguo, dai, vi ascolto. Non puoi modulare, sdraiato. No, non le voglio, mi dovete questa parte qua. E io sono mancino, no, mi siedo dall'altra parte. Dai, continuate, vi ascolto. Sono troppo stanco oggi. Che tu ingresci di là, ci metti un buco. Ingresci la pupilla, te. Avanti, Luca. Cicco drogato. Ti faccio fin da un telefono. Ti faccio fin da un telefono. Il piombo di telefonate. Luca Puccioli. Ma questo si va andato alla sicura Loli, 600 euro. Ma basta di l'infamia. Tu chiusi. Ma dove sono io, no? E allora, i chili, arrivi punti, 600 euro tutto l'anno. Certo, sì, certo, io pago 4,25 euro. Aspetta, tutti quegli attacchi. Aspetta, quando tocca a me, a me tocca a mazzo, faccio un miracolo del giorno, vediamo un po', facciamo lo cambio. È aumentata, tu se vuoi dire 30 euro è aumentata. Ho pagato l'anno scorso 570, adesso 600 euro. Io non voglio fare pubblicità, ma dove vado io? Ho risparmiato quasi 500 euro tra moto e macchine, due macchine. Fatevi un conto. Da dove andavo prima, dove sono andato adesso, con i 500 euro risparmiato. Andate in Galizia, sotto quel porticato, lì si paga poco. Io la faccio sempre, io pago, guarda, di assicurazione, ogni 6 mesi 178 euro. E c'ho anche il caratrice. No, adesso quest'anno è andata così. Al prossimo anno, il signor Duarte se ne manda a fare il culo fino a rivolto da Eddie. E a me, Emanuele, quello che stai pagando tu, ma forse perché è la prima macchina, è la prima macchina, cosa le macchine che ho già fatto io? Solo che le testate se fa nome di un altro. Sì, ma nome tuo, sto dicendo, c'è la prima, paghi un bel... Io ho venduto la mia macchina alla stessa showbag, da un amico, non ce l'ha fatta a pagare l'assicurazione, volevano 1300 euro di assicurazione. E non ce l'ha fatta a pagare, ce l'ha rivenduta. No, comunque adesso è andata così, al prossimo anno secondo me per il figlio guardo qualche tariffa migliore, se non la faccio più da loro. Io ho fatto andare anche a Tonino, dove vado lì, a Tonino, a Coso, a Carlo, sono andati tutti da quello lì e hanno risparmiato tutti. Cazzo, se guardate le mani tanto uno mi ha sparato la bolletta di 900 euro, pensa tu. 6 mesi, non un anno, 6 mesi. 1800 euro l'anno, cazzo. Ma perché hai avuto incidenti o che cosa? Che incidenti, non ho mai avuto incidenti. E allora come è così tanto? Boh, è strano, eh. Vabbè, io pago col tanto lì. 178 euro per 6 mesi. C'era chiuso ieri e oggi, e domani riapriva, quindi domani quando la faccio, ma mi scade il sì, io la faccio sempre prima. E vabbè, era da Russi, Luca non sa se ce l'ho, lo ce l'ho io. E vuol dire che avete i soldi, Io ce l'ho i punti, ce l'ho, e mi fa pagare 4,25, mi sta facendo pagare all'anno. Adesso, quando sono andato, adesso lo pagano a marzo, il 22 marzo, 4,25 lo stesso. E già, i soldi abbiamo, ci lavoriamo già, sacrificio, la tariffa, purtroppo adesso mi informo. Perché devo dare adesso dei dati a una mia amica, vediamo un po' quanto mi fa pagare lì. Vuole sapere come si chiama la cilindrata, non vuole dare. Io non ho detto i soldi perché i soldi, ho detto i soldi da buttare, nel senso che paghi di più quando puoi pagare meno. Non è così, già, sono mancate da tutte le parti, in qualsiasi agenzia che vai ti fanno pagare un sì. Ma, vabbè. Io ti sto dicendo che ho fatto andare con te. Bisogna vedere dalla sanità della patente che c'aveva, dalla polizia che c'aveva. Lo so quello lì. Lo siamo su internet, se vi fidate su internet, ma noi l'ha fatta su internet mia figlia. E ha risparmiato. Mi hanno disgiunto l'incidente, cosa succede? Che devi pagare tu di tasca, io non invoco mai via internet. No, lì c'è la polizia, ne hanno mandata via cellulare, ne hanno mandato la polizia. Quando ti fermano non li fai vedere il cellulare invece che avere una cartaccia, ma se vuoi la puoi anche stampare, non è che... niente, quando c'è l'incidente ci hanno praticamente... il perito anche qua e c'è la perizia, cosa non succede nulla. Ma cosa ha dichiarato di cosa? Cosa c'ha? Per pagare così poco, qualcosa ci deve avere in meno. C'ha la normale più caratteristica. Anche la macchina sostituzione. No, quello no. Vedi, sa, qui sono 20 euro in più che paghi, vedi, ti vai al conto e arrivi sempre a qualcosa lì, per risparmiare, non avere quelle cose. No. Sì, ma allora intanto tu paghi, magari non usufruisci mai e loro guadagnano sempre. E insomma, diciamo che non sembra che pesce prenda. Io l'anno scorso ho usufruito due volte, due volte ho usufruito nel 2024. La macchina sostituita? Sì, già. Mi ha dato il grubbiano e il grubbiano per la giudurrata. E dove te la danno la macchina? Allora, la prima volta me l'hanno data per 4 giorni, la seconda volta me l'hanno data per una settimana e 2 giorni. Quindi, ho capito. No, ma dico, chi te la consegna la macchina? Dove vai a ritirare? Non lo so, se è qua a Sassari, se è Porto Torres, può essere anche Alghero. Dipende da dove ce l'hanno libera la macchina. Ah, ecco, così. La prima volta sono andato sulla strada d'Alghero a ritirarla, da Peugeot mi pare che era, e mi ha dato una panda, mi ha dato. La seconda volta l'ho ritirata a Porto Torres, l'ho ritirata, la Renault 5. Perché ci stanno ancora la Renault 5? L'hanno rifatta. Sì, anche tu. Ma cosa? No, la Renault Clio. Ma ne dado. Mi sono la Renault 5, macchina d'epoca. Avanti, Luca. L'hanno rifatta già. Cosa? L'hanno rifatta, l'hanno riprodotta. C'è la Renault 5 nuova. Ecco. Perché non sanno più che cosa scrivere nella marca della macchina, cioè rifare tutte quelle vecchie che c'era. Oh no, l'hanno rifatta con modello nuovo, la Renault 5, vai a vedertela, la Renault 5 nuova. ma io l'ho vista anche dal vivo. C'è già sassa di che qualcuno ce l'ha. Ma perché quella che c'ho io? Fatta rinnovata a nuovo. A Megan. Rinnovata Megan. Non va nulla, ma parasci da ira. Sì, io ho usato la panna nuova e ti dirò che non è male, ti dirò, di fronte a tutti chi si dice di cazzate, c'è anche, è a 6 marce il cambio, e l'ho usata tante volte nel cascello d'alghero, e ti dirò che non è male, la giubata a burro, la giubata a burro, un camminare a giubata. Sono arrivato a 150, sono arrivato e più. Non è male. È solo che ti suonano le cose di velocità. Ti avverte che stai superando la velocità. No, quella no. Invece la Renault Megane sì. Ah, ma io me l'ho fatto togliere quei così lì. Dov'è che siete tutti qua come? E qua lo sapevamo già. Ciao Claudio. Ciao, lo spacciatore. Ciao a tutti, buonasera. È da banda di Coco, maga. Libero R5. R5. Guarda, io l'ho avuto l'R5. 1.3 benzina. Fa camminare una bocca questa macchina. È bella pure. Allora non ne vado più macchine così. Allora facciamo un bezza. C'è un amico che va la turbo. Che si può camminare? Era tutto a motore dietro. Vabbè, erano 5 colpi in turbo, erano 10, tesori bella, vabbè, bella macchina sempre fatta, la vino comunque, va bene. Ok, sono stato per salutarvi un attimo, vado a controllare la caldaia e poi riprendo. Un attimo, ciao a tutti comunque. Ciao, mi va a vedertela che c'è su internet, guarda come l'hanno fatta, la nuova. C'è, è come se c'è, un nuovo Renault 5, l'ho vista pochi giorni fa io. Guarda in internet che c'è la Renault 5 Turbo in vendita, da corsa proprio. C'è camminato bene alla fine. Quello lì ce l'avevo l'amico mio, un giorno mi ha bussato, sentiamo la scena indietro come accelerà. 12.500 lo sta dando. Ma quella tipo vecchio? Sì, tipo vecchio, però è da corsa. Sta rifatta a lungo, è da corsa però. E quelle sono macchine sportive da quando uscivano dalla fabbrica, erano già tirate un bel figura. Stravede, ma rinnova nuovo. Però è da corsa. Drento va tutto canto. E altro che si bisogna avere la mano, perché se no ti decidi da sotto. Non solo, pure non lo coso, buona, gli sa una specie di benzina che li muovini, un parallozzo da corsa. Pure di ricino. Ne avviago, a caridai. Una volta solo l'ho portata a Gitono a Romara, è meglio. E lui dice, non lo sa più usando nessuno, ma prima lo usava, un fiago quando passava. Mi ricordo che me l'hanno prestata, me l'hanno però. Ma l'hai filmato la strada, ma vi ha filmato. Ma lei dove sta andando con questa macchina qua? A farmi un giro, a Geriputo. Mi ha fatto un verbale subito. Caso che andate a badare, ha girato un verbale. E paga a dirami. E perché il verbale? Stavi corretto? Perché non poteva uscire fuori. E adesso che uscito. E che macchina di quella da corsa? E allora? Quando metto giù un rumore, ma si attenta una baretta, ferma, mi attenta. Allora mi sono confermato piano, mi sono appreso e mi sono poseggiato da una parte. E io me l'ero fuggito. Tanto quella macchina hanno velocità. sì, vabbè, ma a me non mi piace, fammi che non me ne sono preparato, mi ha detto che indietro era un casco, ha detto dietro nella macchina, sedere di dietro, perché c'è ancora il sedere di dietro, sì che ce l'ha, se si vuole accomodare, ha già detto. Esagerato. Ce lo vorrò fare tutto qua. Tutto ciò aveva, tutto quanto, solo che non potevo uscire su strada, anche il badone, il bullo non imbagava, certo, quindi era solo una corsa, l'assicurazione ce l'aveva, almeno quella ce l'aveva. Sì, ma quella macchina vanno pure sul carrello, non vanno messe su strada. Quando vanno a fare le gare, le porti con i carrelli dentro la macchina, le cariche e poi le scariche quando vai. Oh, mi ha voluto bene, anche mi ha fatto, solo per la velocità me l'ha fatta, anche un gamenello. Dice, ma dove si crede? In pista si crede? No, ma sto solo provando e la sto portando al padrone, in officina torna. Ah, ho uscito a provarla, sì, sono sincero, non sto, almeno uno che ne trovo sincero, mi ha fatto... 160 euro mi ha fatto. E la targa a prova non ce l'avevi dietro? Sì che c'era, c'era la targa a prova, c'era, era tutto. Solo che non potevo uscire su strada a provarla, dovevo stare in una strada interna. Lo so, se non hanno pagato né polo né nulla, non sono in regola, poi c'erano motori truccati, quindi la stava preparando tuo genere. No, un amico ce l'aveva. Poi sono passato da mio genero. Ha detto, questa è una bella cosa. Dai, dai, questa ce la paga. Mi ha detto che ce l'aveva, così lui è. Cosa è uscito a provarla, ella, mi piaceva e me l'ha dato un giro. Ella. Meno male che è stato, diciamo, che te l'ha data, che io non l'avevo dato mai nessuno. Avanti, l'ho mio cognato, la famiglia ha detto, ma cos'è che c'ha cosa? Gli hanno regalato a Natale un giro a Movers, gli hanno regalato con la Ferrari. O Ferrari o Lamborghini. Deve scegliere lui. Che altro di angolo io vorrei fare? Solo che mi ha detto che è costosa quella roba. E devi fare una specie di corso prima di prenderla. Che fanno, ti dicono tutte le cose che devi fare. C'è una specie di lezione da fare. E beh, prima bisogna dargli delle lezioni, sennò ti cudare un muro, chissà. Non sei giù che con le macchine normali, no? Lì devo gestire molti cavalli, A novembre il mio genero l'ha provato la Lamborghini. Ti ha fatto provare, a Morris. Uè, divertito, c'è. Certo, mi voglia bussare a me, ha detto, no, me ne so di noi, che gli dà, si muore da freddo. Adesso vedete che verrà un caso, non si muoia sta. Prima bisogna farci confidenza con quello, te lo spiegano come la devi usare, perché io la verità, io no, non sono un pilota, quindi no, cioè, non ho mai visto una macchina del genere, soprattutto di sono automatiche quelle, quindi devi capire come funziona. Ma non dai, capisci che altro ti tratterebbe di culo. Ma c'hai le cose attaccate al volante, il cambio è attaccato al volante, cambi tutto dal volante, cambi. Non è, si cambia tutto dal volante. E il sequenziale. Lo sai cos'è l'emozione? Quando cominci a capirla bene, che cominci a schiacciare l'acceleratore, uia! Mi fotti bene, sì, Anto, ciao, buonasera. Anto. Però te la devi prima capire, perché sennò ti fa la bua con quella. Ciao, Anto. Come sto scendo adesso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto acceso e eccetera eccetera, come da problemi? No. E allora siamo a posto, va. Ci sono riuscito, meno male, era ora. Tu dovevi spegnere, lasciarlo raffreddare e riaccendere. D'accordo, va, sono contento. Adesso non so, se mi danno conto gli altri, come sto uscendo, di segnare il radio, mi fa anche bene. Di segnare 6-8 di radio 5. Ok, va bene, allora già siamo a posto, va, sta uscendo perfetto. Quindi adesso sono contento. Ah, mi ha fatto uscire di testa a casa per 2 giorni. Adesso va bene. Quindi tutta la sera acceso. Quindi, dopo che ho fatto quel difetto lì, ho incominciato a saldare e cose del genere, adesso, adesso è a posto, era male, era ora, cazzo. Mamma mia, cazzo. Mi ha fatto uscire, uscire il gabbo. E che difetto faceva tu? Quando in pratica era freddo e cominciava a scattare, faceva ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mancava di come si chiama, scendeva di potenza, capito? E dopodiché... Prova a parlare a te. Una volta che scaldava, boh, usciva di testa. Il discorso è quello, adesso va bene, sembra che va lì bene, non lo so. Ma è attaccato adesso, perché sei andato da 8 a 9 e 5? Non lo so, boh, adesso va bene comunque. Speriamo che non lo faccia più. Solo per quello, adesso faccio scaldare. Solo... Non mi ha risposto, Antonio, hai attaccato o no? Secondo me è sordo, sta parecchio. Dopo me sta parecchio. Mira. Ho visto te, chi sta parecchio ha problemi. Tu mi hai dato da 8 a 9 e 5, altro, con picchi a 9 e 10 addirittura. Che c'è qualcosa che apparecchio. Bisogna capire bene, non è a posto nulla. Bisogna capirlo bene prima che cos'è. E qualche cosa magari da sostituire, qualche componente che è andato in perdita. Avanti Luca, ci sei? Niente. Pensavo che si è dormito e domani la vado oggi nel bisacchizzo. Oio io, Renault 5. Ma tu c'è la Renault c'hai, Tore? La Megane. L'automatica pure. Su Lanzano, Gianni, ho pagato il bollo del Cascai. Ho toccato a pagarmi. Come c'è stato a 261. Perché l'hai pagato il bollo? Non l'hai venduta, scusa. Sì, ma era... Io l'ho venduta a settembre. Se l'avevo venduta il giorno che dovevo pagare il bollo, non l'ho pagato. No, no, tu quando la vendi, il bollo se lo deve fare lui, il prossimo bollo, non lo devi fare tu. Che ti ha detto questo? Il prossimo bollo se lo fa lui adesso, però io questo è quello del 2025. Che ce l'avevi tu la macchina? Fino a settembre sì, io lo facevo ad aprile. Come l'hai venduto il Cascai? Perché c'aveva problemi sotto, tra cose, come si chiamano, le cose dello sterzo, tiranti e roba varia. Cioè ogni 6 mesi, già da 10 mesi, sono già sballati, quindi l'ho agito, no, ma non sono disfatto. L'hai fatto bene. C'era un difetto della macchina, Tom. Infatti c'era un difetto della macchina, sì. Il rodaio non era, ha avuto un incidente e non l'hanno addrizzato come dovevano addrizzarlo. Ecco, che cosa c'era, non era come la fabbrica sicuramente. E giunto con la roba lì, semiasse con la roba lì. Se semiasse ragione, che me l'ha messo nuovo, ma faceva sempre un stesso rumore, faceva. Quindi, non lo so, dice la ciambada, non la ciambada. Io mi sono stufato, intende il rumore, allora mi ha fatto, ma vedo, mi ha detto che se la volevo, subito, mi ha provata e mi è piaciuta. È tutta bene. Sette, se cammina buro. Erano camminato tutti, io mi ricordo che il furgone tipo Fiorino, l'Espace, non so se te lo ricordi, ce l'aveva uno dei miei principali, quando lo prendevo, cazzo, era una 7. Sì, come te ero un furgone di papia io, travaglietti. Era una saetta io. Solo che una lì prende una pozzone e dopo si è alzata e mi sono caduto in cunetta. Aspetta, quando mi ha chiamato il direttore, dopo di una settimana, dopo 20 giorni, mi pare, mi ha buttato all'officina, che dopo mi l'ha ritirata, me la venne magari rigore. Ha detto, non è colpa mia, no? Non è colpa mia se il furgone si è alzato, stava andando a 50. C'è una signora da Redu e mi ha detto di cosa, ha telefonato ed era così, ed era 50, si è alzato a 50 e mi ha giocato in cunetta, mi giocavo. Ma come si è alzato? Ha trovato qualche disvivero nel terreno? Non lo so, mi si è sollevata e mi sono trovata a destra in cunetta. Ma impilato, questo furgone speciale, ma era quello col cassone dietro per caricare il rifiuto? Sì, cassonato era, no, era tutto coperto il furgone. Se mi ha sbagliato un assurdo, sono diventato bianco, quando sono giunti a pigliarmi, ero bianco io. E a te grido, tanto è bello l'assurdo che ti ha pigliato, Antu, che macchina ti compri? Vai, quella macchina ho visto un filmato di questa ragazza che l'ha regalata al compleanno al ragazzo, il giro in Ferrari, Amores, era tutto qua, tutto preso, tutto soddisfatto, e è andato con la ragazza a fare il giro, hanno fatto vedere la lezione che fanno, prima ti spiegano tutto come devi fare, eccetera, eccetera, e vabbè, è una lezione veloce là che ti fanno, però intanto ti danno un farinatura. Sì, ce n'aveva una la settimana scorsa di Ferrari, il tipo vecchio, a Cunfelli. Avevo un pezzo, ha detto che cosa non vede di là. Ma le Ferrari bisogna portare in continente, qua non c'è gente che gli aggiusta bene le Ferrari, no, non per essere cose, però le Ferrari le portano sempre in continente a aggiustare. Sì, infatti il padrone mi ha pagato quello che doveva pagargli, ha preso il carro attrezzi, mi è venuto il carro attrezzi in officina, se l'ha portata via il carro attrezzi, l'ha portata su in continente. Bianco per me che io vado a mangiare. Ehi, ciao, buona carica. Solitamente le portano i centri autorizzati Ferrari, proprio. Sì, infatti è così, portata su in continente, li ha aggiustato in continente. Ciao Vanto, ci risentiamo alle prossime. Infatti l'ha portata in continente, passate in officina, membri grande. lunedì, ieri, mi sembra che è passato in officina, gliel'ha detto, gliel'ha fatta vedere, l'hanno messo a posto, l'hanno cambiato il pezzo, l'hanno cambiato, l'hanno sistemata tutta bene. È meglio così, però qua a Ferrari, chi è che mette le mani sul motore di Ferrari? Non lo so se ci vuole una capacità particolare per fare certe regolazioni, certe cose quando fanno i lavori, perché sono macchine complicate, non è così, no? Adesso sta già cominciando, mio genio sta cominciando già a fare anche le macchine elettriche, sta cominciando a fare. Mamma mia, che si già dice di capo, bisogna avere una bella strumentazione per quelle macchine. Non si era ordinata la strumentazione. Cazzo, mi pare che hai preso 5 milioni di 5 mila euro di strumentazione. Cazzo, ma bisogna aggiornarsi, perché poi vanno a sparire le macchine a benzina e cose, e rimani senza lavoro se non ti aggiorno. Già si è aggiornato lui, è già la terza volta che va per le macchine elettriche. Sta facendo i corsi in continente? No, giù a Cagliari sono giù a Cagliari. C'è qualcuno che vuole entrare ma non esce di radio. Ecco, ti appoggio. Anche noi, Antonelli. Grazie, caro. Io te l'appoggio e te la spingo pure. Meno male, è ora. Andavo. Vabbè. Antonelli, stava facendo di nuovo quel difetto. Ho capito l'apparecchio, il difetto di Antonio. Capito? Dopo che scalda, cioè finché scalda va bene, dopo che freddo comincia a dare i numeri, quindi a un certo punto adesso devo controllare l'integrato e dopodiché adesso vediamo. A un certo punto era in mezzo all'umidità, quindi a un certo punto adesso vediamo un pochettino cosa cavolo è. Gianni, aspetta, io sto chiudendo e ando a pigliare i bacini. Ci risentiamo alle prossime. Ciao Antonello, alle prossime già. Ciao, ciao a te. Piglia della pastiglia. Va bene, dai, buona carica quando la faccio, sentiamo. Io il cane l'ho già portato, quindi posso anche trattenermi se c'è gente, perché l'ho già portato giù. No, io no. Io ce l'ho portato, però me ne devo pigliare i bacini. Ci sentiamo alle prossime, ok, ciao a tutti. Ciao, ciao Tore, ciao, sentiamo, buona carica, ciao. Avanti, che è rimasto su 10? Ciao, ci sentiamo, stiamo bene, buon tutto, alle prossime. Ho avuto dei trucchi strani, la verità non apparecchio e la metto preoccupando. Mi senti, sì? Guarda un po', mi senti bene, sì? Non è che ci sono problemi, scatti strani. No, adesso è come segnale, siamo intatti, infatti ti ho chiesto se vi ha attaccato, perché si è passato da 8 a 9 e 10 a picchi positivi. Quindi qualche cosa c'è, magari c'è qualche falso contatto, insomma. Perché guarda proprio i piedini controlla, se che siano saldati bene. Mi sono accorto infatti che sarà 9 più 20, no? Peccato, cazzo, poi mi salta tutto, fare E ci serve anche falso contatto nei finali, in quella zona lì. Sì, oh, cazzo, devi segnare a 9.60 addirittura, boh, strane, no? Mai avuto fino a stasera. Ma che apparato è quello lì? È come se fosse, se avesse un CD qua sotto dove mi mette portante, cazzo. A te? Sì, la verità sì. Io non ho scelto portante, non è buco. Non lo so, non lo so, la verità, e poi, vabbè, non me ne fate nulla, la verità, se uno mette a portate 9.60, che si mette in macchina, infatti su, insomma, non me ne frega niente, sta cercando solamente l'orario, anche perché se voglio fare io me ne... vado a bermela e lui se la piglia in culo. E anche lui la tiene a vita. Sì, ma è così. È così. E si sente, c'è niente dentro. Sono 60 di portate a scatti, no? Non so che cazzo sia, la verità è non volevo manco sapere. La verità è, non voglio manco sapere che cazzo sia la verità, ma me lo sto facendo adesso. Io non lo sento, Antonio, deve essere qua perché io non lo sento per niente. Io sì, la verità, qua sotto. Sì, c'è il quadrato di c***o. Vabbè, dai. Se non c'è nessun altro, io prendo e me ne vado a mangiare. E così mi guardo la Samira lui. Ciao, Antonio, ci sentiamo. Buona serata. Ciao, CB, sotto casa mia in macchina. Che mi fa tutto importante. Fu tutto semi. Metti portate, metti tranquillo, non ti preoccupare, tanto non ho sbattuto niente a me. Metti importante. Tanto io in 28 non ti sento, quindi a un certo punto me ne vado in 28 a parlare e siamo a posto. Ma questo è guasto davvero a un certo punto, vero? Porca miseria, cazzo, ma c'è gente che guasta, cazzo, in giro. Sta facendo. Sì, va così. Sotto casa, è bello quello, cazzo. Salute e grazie. Bevutino, sotto casa. Grazie, ti ringrazio. Vabbè, mi avessi invitato, cazzo, al bar. Io dai, invitami, cazzo, al bar almeno, cazzo. Al circolo, a fare il routino. Cazzo, te lo vedi, sotto casa mia, mi metti portate, mi fai il routino, eccetera, cazzo. E non sai per che cosa. Niente. No, vabbè, comunque io sono qua, quando mi vuoi invitare non c'è problema. Anturetto, mi Anturetto. Sì, c'è la portante, hai capito adesso, sotto casa, e quindi non passi, mi dispiace Gianni, cosa posso dire? Non passo? Sì. Ah, va, non sapevo chi era, scusami. Mi ripote. Perché si imbriaca un vino? C'è una scena, Daniele. Non potevi dirlo che hai tu, scusami. Se mi dice, a un certo punto. Cazzo, mi rimate le cose in mano. Daniele, mica non parli più con nessuno, mica lo sai, Daniele. Ho capito. Ah, così mi fai. Dato te che c'è il 540 che te l'ho io, cazzo. Non è morto, cazzo. Non vedevo fino al fondo scala, cazzo, strano. Tu? Ho capito. Ok, adesso ho capito. Tranquillo. Allora senti Gianni, allora senti a Daniele. Ha detto. Ciucucciù. Qua se ti metti distante dal microfono almeno 15-20 centimetri ti capisco la verità. Adesso ti ascolto, però se ha fatto male il cazzo, gli amplificati il cazzo di come l'LC, con quel microfono amplificato, perché il cazzo quello è un cesso, ma comunque sia, va bene. capito bello bene, Angelo, eh? Ho capito, capito. Ascolta, metti il microfono amplificato a 1. Salute, e 2, e 3, apriale in culo mi. Daniele, lo sai, cioè, già metti il segnale forte che a volte, cazzo, Marco ti capisco, cazzo. Addirittura, aspetta un secondo che metto l'NB a 0, perché cazzo, a un certo punto sono, non ti capisco. Tu figurati, se domani notte ti installo la tua antenna di fronte alla mia casa. Ecco qua, ecco, adesso ho messo la tua mattona. Se ti non togli il microfono, va bene, anche 20-30 centimetri, la verità. Si capisce la verità, no, non lo so. Sei cupo, sei veramente cupo, sei da qua. Ascò, sai un attimo a casa, 2 minuti, ti do il microfono al caso di Antonio, e tu mi dai quello di Antonio, come no? Dammi un secondo, cazzo, cosa ti costa? Non ti costa niente, cazzo, almeno, cazzo, ti ascolto come si deve, cazzo, se no te la prendi in culo, non ti capisco. Ah, stai staccando adesso. Vabbè, fai come vuoi tu, cosa vuoi ti dica? Allora sei a casa, sì. Sei a casa, vedo, sì. Ah, meno male, meno quello. Ehi, va bene, d'accordo. A proposito, non c'è neanche bisogno, cazzo, che fai una cosa del genere. Hai visto che c'è il Mikey Gain, c'è presente, sì. L'ultima manopola che c'è sopra, avevo già scritto CBPA, c'è scritto Mikey Gain, gira dalla parte opposta. C'è in pratica la manopola CBPA, c'è CBPA, CB, un cazzo, c'è il cazzino CBPA, poi c'è scritto Mikey Gain, c'è la presente, sì, no, non c'è bisogno che va in PA, c'è scritto Mikey Gain, e la manopola che c'è, l'ultima, sotto la CBPA, lo gira appena, e così ti diminuisce l'amplificazione. E hai fatto quelli scemi, cazzo. Aumenta appena. Prova un po'. Adesso va bene, vedi. Ecco, meno male, era ora, cazzo. Cazzo. Non è possibile, cazzo. Cazzo. Non è mai visto una cosa del genere, cazzo, qua. Porca miseria, cazzo. Si è aperto in due, cazzo, come si chiama, porca miseria, cazzo, ma anche che cazzo, ma se bisogna che gli metto la colla, l'incollo e vaffanculo, cazzo, ma vaffanculo, mai mi è capitato in vita mia, mai, in 30 anni che c'è un baracchino così, mai mi è capitato. E infatti adesso ho diminuito, adesso prendo il pezzo che manca e lo incollo, cazzo, ma vaffanculo, cazzo, guarda, mai mi è capitato, guarda una cosa del genere. E ciao, a domani, Daniele. Ah, a proposito, Daniele, cosa è tutto a posto, quindi a un certo punto ordinami quel cazzo di, vabbè, scarichiamo quel cazzo di aggeggio, così mi ordino quel cazzo di antenna. che mi voglio tirare quella specie di antenna, quella 27, hai capito? Carico, hai capito? Carico quella fare e carichiamo io ordino quell'antenna per la 27. E vabbè, domani ci vediamo, là, non c'è problema. D'accordo? Facciamo cazzo, si fa cazzo. Fa cazzo così col capo, il coso, cazzo. Boh, ma che cazzo gli ha preso? Non ho capito. Ciao. Ciao, buonanotte, Daniele. Ciao.